da diversi anni ormai che la spesa per consumi alimentari sta scendendo, forse la notizia non è tanto sul 2011, il crollo c'è stato nel 2008 e 2009, quello che colpisce è che i consumi alimentari sono tradizionalmente considerati come non comprimibili, ecco oggi forse è un po' meno vero, sono un po' meno non comprimibili nel passato, perché le famiglie stanno indubbiamente facendo dei sacrifici, sacrifici sul fronte della qualità, ad esempio comprando nei discount, alcuni prodotti tipo i tabacchi sono spesi di meno, però c'è anche un lato diciamo positivo, nel senso che si riduce la spesa senza sacrifici, c'è indubbiamente una maggiore attenzione a sprecare di meno, in campo alimentare ci sono degli sprechi enormi sia sui prodotti freschi che sui conservati. E poi c'è un fenomeno nuovo che credo che sia molto interessante, c'è un maggior ricorso diretto ai produttori, quelli che siamo farm market, i chilometri zero, che allo stato attuale non pesano ancora molto, però possono essere un fenomeno abbastanza interessante. Ecco, lei già citava il fatto che in questo vostro rapporto ci sono dei consumi come quello del tabacco che per fortuna sono in calo strutturale, cioè non c'entra la crisi, c'entra il fatto che le persone giustamente fumano di meno, hanno smesso di fumare, e fanno bene, tranne Trovati che è qui di fronte a me che fuma tantissimo, mentre in realtà i consumi di alimentari e bevande sono consumi che una volta si definivano meno comprimibili, quindi li comprimi solo se veramente devi. Esatto, però il fenomeno insomma che ci siamo resi conto è che ci sono delle modalità di compressione anche in questo caso, spostando il mix di acquisti verso prodotti meno costosi o per di qualità un po' inferiore o perché sono prodotti dove c'è una catena distributiva un pochino meno lunga, ci sono degli enormi rincari, vediamo spesso sui giornali, no? il salto di valore che c'è dal contadino al consumatore è veramente gigantesco, allungando la catena.